America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, da New York, Mario Platero. Forse non avrete riconosciuto questo audio che vi ho fatto ascoltare, ma è la grande festa a casa del goleador Jamie Vardy, goleador di Leicester City, quando due settimane fa si è capito che la sua squadra, Leicester City appunto, avrebbe vinto il campionato inglese. Beh, la storia del miracolo la conoscete, sapete che il campionato si chiude domenica e che lunedì a Leicester City ci sarà la più grande festa popolare nella storia della città. Forse però non sapete che questa vittoria in America, beh, è diventata un po' un mito hollywoodiano. We don't cover a lot of European soccer, but these are some extraordinary scenes. You have to take a look. Start off in England, where Leicester City players erupt in celebration when their Cinderella season turned into a championship winning one. Ecco, questo è uno spezzone da ABC News, però ne hanno parlato le prime pagine dei giornali, il New York Times, e c'è stato un contagio fra tifosi inglesi espatriati in America. Ecco, ne ho due ai microfoni di America 24, John Micklethwaite, direttore di Bloomberg, ex direttore dell'Economist, tifoso di Leicester City, Jamie Grant, chairman di settore di una grande banca globale, tifoso della nemesi di Leicester City, cioè dell'Arsenal. Hello John! Hello, Jamie. Hello, Mario. Hello, Mario. So let's start with this. Let's hear this. Go. Lovely ball through. It's Theo Walcott! And it's 1-1! It is a rapid response from Arsenal. Well back! There's your fairy tale! Ecco, ho fatto ascoltare due momenti chiave della stagione. 27 settembre, Arsenal 5, Leicester City 2. 14 febbraio, Arsenal 2, Leicester City 1. Come reagite di fronte al ricordo? Amici o nemici, John? Well, I certainly remember very, very intensely the moment when Arsenal. Mi ricordo bene di quella partita. L'Arsenal ha vinto proprio all'ultimo istante, a tempo scaduto, pura fortuna. And that was the last time Leicester were beaten. Ma Jamie, solo questione di fortuna? I think Mario that it's fair to say that, you know, fortuna. La squadra che vince il campionato deve essere perfetta. Noi dell'Arsenal abbiamo sconfitto il Leicester 2 volte su 2. Punto, capitolo chiuso. I migliori siamo noi. Peccato che il Leicester abbia vinto il campionato, mentre l'Arsenal è rimasta a mani vuote. Noi a confronto del colosso commerciale dell'Arsenal siamo come un rigattiere di paese. Il Leicester non ha mai vinto nulla, mai. Chiunque, persino Jamie, dovrebbe festeggiare con noi. Ok, Jamie, sentiamo un altro momento chiave. To Fuchs, looking for his options, and he slides it through. Jamie Vardy, is this the moment? History is made! Ecco, questo Jamie Vardy, il momento in cui fa gol, gol che fa storia, 11 partite di fila con un gol, record britannico. Jamie, vogliamo dare onore al merito. I have to say something nice, both because John is a friend and also because how could anybody. Merito riconosciuto, non solo perché John è un amico, ma perché le cose incredibili che ha fatto Vardy in questa stagione hanno sbalordito tutti. Però ora dico, Leicester, fatti da parte, tocca a noi, siamo stufi di arrivare sempre solo fra i primi quattro. With not much else to show for it. So well done, Leicester, but now please move aside. Jamie, insomma, sempre polemico. Pensa che al povero John invece è andata malissimo con le scommesse, credo, vero John? True. Ever since I was at the Economist, back in the 1990s, I used to come. Actually, I think when I first met. Verissimo, ho sempre avuto due rituali nelle scommesse. Il primo, compro i biglietti dalla lotteria in società con te, Mario. L'altro, ho sempre scommesso 20 sterline sull'Leicester fin dagli anni 90 e questo, che era dato 5.000 a 1, non l'ho fatto. Avrei vinto 100.000 sterline, un dramma. Beh, allora, parliamo di soldi, stiamo sui soldi. I giocatori di Leicester City valgono 32 milioni di dollari, quelli del Manchester City 473 milioni di dollari. Non parliamo dell'Arsenal, non parliamo degli stipendi. Jamie, come banchiere, ma che riflessione fai? Intanto possiamo dire che i banchieri non sono gli unici ad essere pagati troppo, ma parliamo seriamente. Quel che conta non è la quantità di soldi che tu sei disposto a spendere per i giocatori, ma la compattezza che trovi nello spogliatoio. Bene, abbiamo parlato dei giocatori, ma ora spostiamo l'attenzione su qualcun altro. He says you have an imaginary bell that you shake if you don't think you've got their full attention. I tell to them dilly din dilly don when they are sleeping, no? Well, we bought you a little bell. You can use that. Hey, you are sleeping, come on. Claudio Ranieri, la sua campanella, dilly ding, dilly dong, per tenere in ordine i giocatori, la usava, così era diventata una specie di leggenda. Parliamo di questo allenatore che ha vinto, un protagonista, devo dire, tutto italiano. No, he's fantastic Ranieri. I remember going to watch one match of Leicester against Man City. Ranieri è stato incredibile. Sono andato a vedere una partita una volta in un pub a Roma, Leicester contro Manchester City. La gente tifava per Ranieri, era da sempre considerato una brava persona e oggi è un eroe nazionale. John, ma dimmi un po', ma perché sei tifoso di Leicester City? Perché gli unici tifosi dell'Leicester sono i locali, in città e dintorni. E io sono cresciuto a 50 miglia dalla città. Al di fuori, nessun tifoso, zero. Ora invece ci sono tifosi persino nel mio palazzo, e non perché ci abito io. Oggi in America il Leicester è di moda. E tu, Jamie, ma perché sei tifoso invece dell'Arsenal? Per caso, a 8 anni, a scuola il maestro mi chiede: per chi tifi? Il mio vicino di banco risponde: Arsenal. E io, che non conoscevo una squadra, l'ho imitato. Non ho più cambiato. Ci sono altre due cose che voglio dire sugli americani. La prima, ora sanno dire il nome Leicester. Prima invece dicevano Leicester o usavano altre storpiature. La seconda è che gli americani, almeno per un attimo, non chiamano più il calcio soccer, ma calcio, ovvero football. Questo è un evento straordinario. Ecco, parliamo un attimo di voi in termini calcistici. John gioca maluccio, questo lo sappiamo, ma io e Jamie, insomma, abbiamo una storia calcistica. Giocavamo Italia-Inghilterra con i nostri bambini fin da quando erano piccoli, molti anni fa, e non dovrei dirlo, però, insomma, l'Italia vinceva sempre. Mario, quel che ricordo è che a un certo punto ci siamo accorti che la tua squadra diceva di poter usare le mani. Ho visto anch'io qualcuna di quelle partite e mi sono accorto che muovevano anche la porta. Mai successo. Per concludere, commento su questo allenatore italiano, Ranieri. Ranieri è diventato un perfetto gentleman inglese, almeno per come la vedo io. È molto divertente, intelligente, ma anche molto bravo nel fare il suo lavoro. L'unica cosa è forse il suo inglese ermetico. Aggiungerei un'altra cosa: le sue priorità. Nonostante si trovasse nel bel mezzo di uno dei momenti più incredibili della storia del calcio inglese, Ranieri è andato a pranzo a Roma con la madre 96enne, a scapito della partita che gli avrebbe assegnato la vittoria. Questione di priorità, lo ha fatto solo perché lo aveva promesso. Un vero gentleman. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, come sempre facciamola scegliere ai nostri ospiti. Cominciamo con Jamie. Yeah, no, thank you Mario. Voglio essere sportivo. La dedico a John e alla vittoria dell'Leicester. L'inno del Leicester City. When You're Smiling, di Louis Armstrong. Of Leicester City when you're smiling. Sono d'accordo, c'è anche una singolare coincidenza. Ricordo una sua versione di questa canzone del 29, esattamente l'anno successivo all'ultimo trofeo dell'Leicester. Era il 1928 e il Leicester ottenne la medaglia per il secondo posto in campionato. Perfetto, Louis Armstrong, When You're Smiling, 1929. Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole smiles with you, baby, baby. Yes, when you laughing, ba ba ba ba, when you laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you crying, bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.